faccio il disco live. Noi siamo anche Blue Studio e registrano lì. No, non l'ho mai sentito. Comunque, perché se le registrazioni a Sassari ci sono, non lo sapevo proprio che ci fosse. Certo, cioè, più di una le punte pure, Studio Master, però quella che parte di tutti penso che sia quella che lavoro anche io, dai. No, ma allora è una sala privata che c'hanno, capito? L'hanno fatta loro, è privata, cantano solo loro. C'è un amico la ragazza di Manuela che praticamente va a preparare le musiche perché DJ anche lui e va a fare le musiche lì, capito? Capito. Vai Bianco che mi stanno chiamando a mangiare, ci sentiamo dopo. Ok. No, invece siamo sola. Sono bella, la realizzazione. Avanti Luca. Ho detto, io dice sono che canta su e sono belli. Cosa? Amici? Basso. Si sente? E adesso? Perché sto chiudendo il microfono. Ho detto che ci sono questi cantatù belli comunque, come quello che hanno pubblicizzato digitalmente, no? Molto, molto bello, con tutte le luci, colori, cioè non è uno, ma fa un compleanno. Come dice Antonio, cazzo, ti devi comprare 4 miliardi di pianto, super angry super cose, video, là, con i DJ, cioè, uno se ti vuoi divertire in famiglia con i familiari, Antonio, non è che ti devi avere apposta un impianto da 4 miliardi di euro, dei salutatori, di mixer, cioè. Antonio l'ha chiamato a mangiare. E va bene, anche io ho la cassa da 200 watt e ce l'è per i pulci, di quelli che si illuminano tutte quante quando canti. Si può regolare tutto, ecco, tonalità, bassi, alti, di tutto. E va molto molto bene. Io la uso come radio in casa perché si può mettere anche la radio, c'è la radio incorporata. E poi lo puoi usare anche come karaoke, metti il karaoke, lo colleghi al televisore, il computer, metti le musiche e poi le canti con il microfono della cassa, capito? E quello sto dicendo io già, questi canta più, suonano anche bene quanto capito, Poi uno prende il microfono perché il diritto originale se non può comprare un altro, perché. Ah, non è che basta un compleanno per divertirsi in fine settimana organizzi, gli devo iniziare a 4 mila euro, con il mister, il DJ, cioè, per me è una prestata, almeno di tutti, le cose che fa tutti lei, che fa l'impianto grosso, che lui mi ha fa cantare di Antonio Grandi che va a Lisa Bagazzina. Io allora ho sia il cantatù sia la cassa con la Bluetooth, quella che va con il Bluetooth col telefono anche, capito? Tu per dire vai su YouTube e metti il telefono oppure ci puoi mettere il computer, lo metti sul Bluetooth e tu canti con la cassa, capito? Il microfono è senza filo, quindi puoi usare il microfono senza filo con Bluetooth e va alla grande. No, io ho con le casse con la Bluetooth le metti sulla musica tramite il cellulare. Quindi sono comodo, si fa fine, si fa fino a due. E anche io, c'è la maestra, tutto là. E puoi mettere anche la radio. Esatto. Io ascolto la radio, la mattina RDS ascolto la mattina. E poi quando devo cantare, l'altro giorno ho cantato e hanno suonato il campanello subito a rompere le balle alle 9:20, cazzo, c'è la mia figlia arrivata da Bologna, abbiamo fatto una cena, cose, e praticamente prima di cena abbiamo cantato qualche canzone, mia figlia canta, quindi qualche canzone l'abbiamo fatta e poi sono sceso giù a Forza del Cane, c'era mia figlia, stavano cantando e abbiamo alzato il campanello e detto di spegnere immediatamente il karaoke, ma che sia immediatamente, mia figlia ha detto datti una calmata, è che lo vedo io, se no anziché non riesci a platamo. Hanno fatto i bambini, mi hanno fatto i bambini. erano da manco viste le tramuste. Ma infatti erano le 9 meno 20, 4 luglio, solo che qua da parte c'è una che capito è fuori di campo. Io sto pensando di sciappella, ma è al primo piano, come cacchio ha fatto a sentire al primo piano? A me che stavo usando la casa quella lì e mia figlia quando ho cacchio ha degli alti, degli acuti che sono tremendi. E tu allora, io ci sono a casa. Mia figlia ha preso da me, mia figlia come sentivo a me cantare quando era piccola, cantava anche lì, mi si metteva al computer e cantava. Poi ho voluto andare a scuola di canto, è andato a scuola di canto e la professoressa l'ha presa e a lì e un altro ragazzo che erano i più bravi e li faceva fare le serate sul palco eccetera. Poi è stato a TNG, accompagnava le modelle che sfilavano eccetera, lei cantava, le modelle sfilavano, capito? Anche questa è una passione, vabbè, lei è molto bravo, molto bravo, non perché sia mia figlia, ma canta benissimo, l'hanno sentita anche gente che mi ha detto, oh, sapevo che era tua figlia, tu hai scritto che è brava, mi hanno fatto i complimenti, e tu sei mia figlia. E ha fatto diverse serate, è andata anche andata a Sorso quando c'era Celentano, però non Celentano per, è uno che si assomiglia a Celentano, ma in un modo sembra due gocce d'acqua, uguale. E poi canta proprio come Celentano, è proprio lo imita benissimo. Ma che tipo di Celentano? No, no, questo qui è un Celentano continentale, non è sardo. No, piccolo Celentano già lo conosco. Muguri. E beh, poi giustamente, visto che c'è la passione, avrà fatto esperienza con la voce, con la gola, le corde vocali, tutti gli insegnamenti che gli fanno, c'aveva la professoressa di canto, gli dice ma come allontanare il microfono quando facevi gli alti, come avvicinarlo, a quanto lavori, a una, a due, a tre di tonalità, e insomma devi sapere queste cose, io le so perché mi sono appentato, capito? Mi appentavo a cantare, mi piaceva. Però non ero mai riuscito a... cioè lo facevo in casa, a me non mi piaceva farmi vedere o cosa. Invece adesso mi piace proprio partecipare, mandarle le canzoni, tutto qua. Soprattutto se tu ti fanno i complimenti sui gardi, giustamente. Se ti rispondono come se non ti sei abbassato, ma dici di fare una burrata, che questo è là. Allora dici, forse è vero, meglio lasciare perdere. Ma io dico la verità, canto per rilassarmi, a me mi rilassa il canto. Mi rilassa, poi un giorno non ti dico una cosa. Ho scoperto un modo per addormentarti, su guarda, si chiama ipnosi del sonno. Adesso ti mettono questa musica, ti dirò 25 minuti, ti senti questo formicolio addosso, una cosa allucinante, mi sono passati anche i dolori, non ti riguardo, è una cosa curativa, che fanno praticamente proprio un modo per curare le persone quando hanno sonnolenza, ma sonnolenza, quando non dormono, capito, insonnia. E anche per tutte le altre cose va bene, capito? Io mi sono sentito questo formicolio, adesso che sia un caso, mi sono sentito questo formicolio, qui il tipo ti parla molto pacato, molto dolce parlando, e poi ti dice adesso chiudi gli occhi, e ascolta questa musica, eccetera, eccetera, molti dromi. Io mi sono addormentato con il cellulare acceso e con gli occhiali nel viso, immagina. No, io devo stare, io non è che mi conto il microfono, io vabbè, non ho manco di io mi interessa. anche io sono così, guardo TikTok, guardo le live, tutte queste cose qua. Oramai siamo condizionati che se ci manca il telefono moriamo. Io tenendo niente in televisione metto dal telefono. Anche YouTube l'ho messo dal telefono e tanto televisione fermato. Mi guardo qualche video così. Cosa guardi, video? YouTube ha giusto. No, YouTube, YouTube. Tu mi hai detto guardo qualche video, ma di quale? Di che cosa? Su YouTube che video puoi guardare? C'è anche con YouTube. E a tutti diciamo. No, su questo YouTube. Anche tanto, una bella, l'ho guardato nel cellulare, è piccolino, è fatto male per la televisione. Oh, mi sono accoppato con la sfida a polvere, quella di internet, l'hai vista, quella micidiale. Cazzo, che da una parte soffia, dall'altra aspira. No, è piccolina, ma leggevole, piccola, però c'ha una potenza allucinante, bellissima. 30 euro l'ho pagata, però. No, si carica, vabbè, c'è l'attacco USB, però io gli ho attaccato il caricabatteria, l'attacco USB e lo carico con la caricabatteria. Sei tipo batteria? Accumulatore. Va tutto. Funziona bene. Per la mano, e adesso lo devo provare, però ho provato con la mano e aspira forte. E praticamente lo devo provare ancora, non l'ho provato, mi è arrivato stamattina. Adesso se lo provo nella macchina a vedere, l'ho provato sul tavolino della sala che c'era per di polvere, ho provato e si era tutta tirata. Ma tipo quelli a tirabriciole, quelle robe lì? Così è piccolino, capito? Però ha il motore tedesco, ha un motore potente. Io ho detto, morava la spacca. Ho provato e adesso sembra che, perché se no di quella grandezza lì, anche più grande, dai cinesi ci dicono, ma non aspirano nulla, le pietruline non se le aspira dalla mano. No, ormai i cinesi, mi pare che sono tutti pallenti. Pallenti, si sono sempre miei. Aprono le pochine, quindi anche a pannone. C'è Muraia, sempre in nero, io vado a Muraia, ho comprato le lampadine da poco, quelle a basso consumo, e fanno un po' di luce anche. Ma lo sai cosa c'è, Luca? Io l'ho visto su un giornale che prima davano, ti ricordi quei giornali che davano nei negozi gratis? Sì. E ho letto, leggevo questi articoli di lettura, no, che c'era, e questa signora ha scritto che praticamente non bisogna comprare dai cinesi perché usano i soldi per la mafia, non so, c'è la mafia cinese dietro e cosa. E questa signora gli ha risposto, se lei mi dà i soldi, io l'altro giorno con 50 euro ho comprato dalla biancheria intima i pantaloni e anche la parte di sopra. Lei mi trovi un negozio dove a me mi dà questa cosa, io sono pensionata, gli ha detto. Mi trovi un negozio che tutta questa roba la compri per 50 euro come ho comprato lì. E io poi gli do anche una giornata. Perché l'italiano fa prezzi alti, giustamente non ce la fanno a comprare queste. Sì, ce la fanno le persone che hanno i soldi, comprano roba di marca e anch'io ogni tanto, per dire, le scarpe, queste cose qua le prendo Nike perché sono comode, sono buone come scarpe, capito? Non perché sono Nike, però le Nike sono forse le Puma, le Nike sono le uniche scarpe che a me mi vanno bene per i piedi, perché io praticamente ho i piedi molto delicati, se mi fa una buona una cosa, la guarire quando ci metto. Stai comprando la spesa, io sto comprando la spesa, sempre, guarda. bellissima, grossa, caldo, caldo. Tebu, non lo conoscevo com'è. No, aspetta, guarda, tu tra l'altro mi barba di 10 giorni. Veramente si risparmia tantissimo. Aspetta, ma. E mandamelo qui, guardo perché incarica il telefono. E vabbè, comunque, vabbè, per Natale me le sono comprate le scarpe, ho comprato qualche cosa per me, mi ho preso l'orologio. Orologio nuovo. Brillo. Il crono. Che era praticamente in offerta e me l'ha giubilato. Ho usato un po' di anni quello della fregola, però poi con il cellulare ho trovato lì per un motivo, per un altro, ho fatto un bagno al mare, così fare la pista, no, io non me lo trovo manco al mare, questi qui sono subacquei, quello che c'ho io è un crono subacqueo, 100 metri di profondità scende, così c'è scritto. E nell'aprile l'ho pagato una gassata perché l'ho preso da Amazon e c'era Black Friday, come si dice, e praticamente l'ho pagato 99 euro, costava 200 e passa euro. E poi lo guardo quando mi alzo che vado a portare il cane, lo stacco perché quel cazzo di Star Maker si brucia un po' di batteria quando cambia, te la fa scaricare. No, io non ne ho, con la presa direttamente, oppure mi metto la poltrona vicino alla presa e continuo a parlare o a cantare. Tu viaga e cosa ti fa Zemani? Niente, nulla. Tanto ho mangiato e io ho già mangiato, ti sei poco veloce. Io zappa. Farò qualche cosa così, non la giocare di cucina, mangerò qualche cosa, c'ho quel formaggio piccato che è buono. Chiesto di stare attento, se no ti brucia la canna. Ma io, guarda, non lo sento più di tanto piccante, non so, prima all'inizio lo sentivo, dovevo bermi il latte, dopo che lo mangiavo, perché si brucia il stomaco, se no, come la canna. Adesso invece non lo sento più, sono abituato. Aspetta un attimo, mi ha chiamato Sara, mamma mia. Sento sapore piccante, però non lo sento che mi brucia. E Antonio, tra poco mi chiamo Rudy, perché voglio che mi chiami. Ma Fenei, è sempre Andrudi, eh. Mi sono, guarda, fatto tanto di quelle risate l'altro giorno che ho visto un filmato su TikTok. C'era questo qua che si inchinava da parte alla gente e poi mollava. Vabbè, c'aveva qualche cosa, qualche scherzo di carne pane doveva essere. E scorreggiava, tutti rilevano, cazzo, c'è gente che si spostava di colpo, una coppietta stava baciando, a un certo punto si inchina, Sì, è un successo tanto. Ci sono i video di questo ragazzo lì, mi dico lo grasso, alto e grasso, che c'è andato a fare molto. No, questo qui passeggiava in mezzo alla gente, c'era gente seduta, gente che passava, si avvicinava alle ragazze per dire boh, e quelle scappavano ridendo, scappavano. Ma quella vita tenevano in tasca, stavano in tasca. No, però quello non l'ho visto. E invece ne fanno tanti, dai. E comunque faceva crepare. Poi un'altra volta ne ho visto uno che ha messo la candela sul comodino, si è coricato, l'amico ha preso l'accendino e gli ha messo fuoco come se stava facendo lo scorriccio e ha acceso la candela. Sì, che magari ci siamo messo la filante di posta il raggio. E quando l'ha acceso del tutto la inceneri due avanti. Poi stavo vedendo tante di quelle porcherie, tu. Gente che fa da mangiare, devono essere indiani, mamma mia, come cazzo fanno le cose. Una ci ha sputtato dentro nella roba da mangiare e poi l'ha girata, mamma mia. Ehi, si può fare, non hai visto, che come mangio, dentro, che schifo. Guarda, non so che sono in mezzo alle fondi, dentro alle fondi non sono la roba da mangiare, non si fanno preparare. Nei Zurichi in Bassetti non li visti, nella Bassetti li mangia nei Zurichi, passavano e si mangiavano la roba che passava nelle pentole, si mangiavano la pentola e si mangiavano intorno alla roba. Eccomi qua, stazione 2. Sei più forte qua che là, no? Questo che è il regalo di Gianni. Questo è proprio quello, Per anche a Luca glielo ho dato uno. Uno a te, uno a Luca. Questo qua va bene, no? Io me lo metto in camera, va bene. Oh, io già, stavo cambiando. Non lo stai usando quel portatile, non l'hai provato? Sì che l'ho provato. Funziona benissimo. Non c'è nulla, tu si dice io la roba che c'ho non è vecchia, È tutta roba nuova la roba mia. Io con quel portatile lì, dall'astronautore che porta da Dittali, non so dove è Dittali, la strada che porta su al Monte di Su, la strada che c'è a fianco a casa. Passeggiando col cane lì, ho parlato con Porto Torres, con quel portatile lì. Ma poi c'è che ne ha già visto uno da un rivenditore, mi pare, le vendendo più di 200 euro, può essere. Quello lì, sì che può essere. Sì, costava così. No, sono buoni quelli lì, che vanno bene. Addirittura di quello c'è anche un microfonino della Midland, che ci va bene, si mette sopra e tu te lo metti in tasca e parli col microfonino. Parli e senti dal microfonino. Però mi hanno detto che la radio è più bella che è più bella la radio del baracchino della radio. Questo funziona bene, la notte qua. Cavolo, funziona che è una meraviglia. C'è una radio, un gas potente. C'ho un coso, c'ho un alimentatore, cazzo, se ti dico di cosa è, da 5 ampere, con la 5 sigarette già incorporato. L'uso quello lì piccolino, piccolino, cavolo, ma ed è un frigo di quelli, praticamente un alimentatore che alimentava il frigo di quelli portatili. Adesso lo sto usando per alimentare questo, funziona benissimo. E non c'è una alternata, niente, è perfetto. E switching. E anche io ho un albero di Natale con le luci di quelle, come si chiamano, a fibra ottica, e già l'ho alimentato, l'ho attaccato, quest'anno non funzionava niente, proprio zero, stavo per buttarcelo, ho detto aspetta, chiamai di usiva giù qualche trasformatore di quelli, si è attaccato il trasformatore e funziona tranquillamente. Beh, succede, già, succede. Insomma, va che una meraviglia, va. Ma se l'anno scorso l'ho conservato, tu che funzionava, l'ho spento io e poi l'ho conservato. Cosa gli sia successo non lo so, quello è il trasformatore che si è ballato, a furia di stare fermo tutto l'anno, si è ballato. Non me ne ho messo un altro che c'è fermo da anni, perché nella vita mia se devi sapere che ci buttavano trasformatori di tutto, quando io li trovavo me li portavo a casa. E piano piano ne ho regalato uno a uno, un altro, sono tutti pariti, e vanno giù, giusto uno o due per me. E andava bene. Perfetto la situazione. prende neanche colpi, mi sono sul 23 sono, ma no, ho notato che è molto selettiva come radio, capito già? Sì, sì, oggi non li sento, per dire, vedi, quando non attaccano non li sento. No, alla 48 si sentivano, qua non li sento. Nemmeno nel Galaxy, guarda che il Galaxy non è mille di splatter, però io li sentivo proprio forte, mi disturbavo a me. Loro si lamentano che il Galaxy li disturba, però loro non si vedono. No, anche questo è molto selettivo, la verità è piccolino ma sincero. Io ho abbassato tutto lo squelch ieri per sentire il Gabino perché lo copriva. No, ti dico che sono veramente contento di questo portatile. Me lo porto in camera, mi ho fatto il capo. Attacco dentro e io sto andando. Faccio. Va bene. Ma va bene anche con l'antenna sua, vecchio lui. Sì, sì, vabbè, io lo uso con quell'antenna, sì, per ascoltare, ma molto, molto raggio non ce l'ha. E hanno 5 watt, ne hanno più quelli dei baracchini che si vedi. E quelli, perlomeno io c'avevo l'Intec, quello SOS, che c'era la valigetta, l'antenna con la base magnetica, ce l'ho ancora l'antenna. Io ho parlato da Sassa, da Platamona a Sassa, dico quell'antennino che c'è, ed è tipo un'antenna di radio, con la base calamitata, la metti sul tetto della macchina, la alzi e stai andando. Sì, sì, sì. E quello avevo una radio, c'avevo una capsula, quell'apparecchio lì, ma ce l'avevo minimo una ventina d'anni, minimo, conservato bene tutto quanto, poi un giorno si è fasciato e si era girappato, cosa ho portato. Quello che non ho pensato a togliere la capsula, perché quella era buona la capsula, mi diceva, tanto lì a radio, appare amplificato. Cappa. Questo qua è bello, questo qua c'è il compressore, cioè, l'SP, questo è un bellissimo apparecchio. Me lo tengo, qua in camera da letto, non occupa posto, quando è ci metto tutto dentro il comodino non si vede niente quando non ci sono. E appunto che fastidio ti dà, adesso fastidio. Funziona benissimo. Sì, sì. Pone dentro, togli il PL, metti sotto l'armadio, non si vede nulla, è tutto dentro il coso. Tanto il comodino, tu sei a posto. Che ore sono? Oh, mamma mia! L'ho visto le 7:30, ha acceso la luce. Le 19:27, manco l'otto sono ancora. E mai che si deve rompere il cacco, le voci deve andare. Mi sta chiamando. Ma lo sai che cazzo un cazzo si può raggazzare a Buruetti? Cosa fa? Si mette a cantare pure il Brulucane. La conosci? E cosa? La canzone di Renato Zero, amico. Si muove da Brulucane. E mi fa... pure lui ha ad imparare. Le piace, quella canzone specifica canta. Altre no, quella lì le piace proprio, capito? Quando, specialmente quando alzo di tonalità, si mette a cantare anche lui. Sì, medio alta è come... non è molto altissima, no? Quella di Renato Zero. Vai, ma come si dice, manca i gari. Manca il grande viaggio Renato Zero. E se no Albano, buoni Albano, ma che si dice? Cazzo, si buoni di zappare la. No, lascia perdere che ho una voce che sommo, l'ho sentito dal vivo, l'ho sentito, l'ho fatto pure il concerto all'Auditorium a Cagliari. Poi non ce n'è per nessuno. Albano sarà antico, grandi, ma c'è una voce che è tremenda, ha una bella voce. E a Renato Zero che piace a un po' di gente, tu pensa che quando io vado in diverse famiglie a cantarla, sempre mi mandano fuochi artificio, applausi, eccetera, eccetera. Tu non so se come funziona, quando una persona le piace la canzone ti mandano tutte queste cose qua, fuochi artificio, le stelle, tutte queste cose. Pare Antonio quando mangia la fai nei cantenne, preciso. Ti giuro, è uscita talmente buona, l'ho fatta riposare bene, che una teglia me la sono mangiata io con salsiccia e cipolle, ma buona a me. Questa teglia da casa, se quelle sempre molle. Mi ha fatto manco male. No. Lo gas nervino, va tenuto Antonio. No, non ti fa male perché è fatta con roba genuina. E l'esercizio si chissà può quelle che copri, non ci siamo conservati, cosa ne sa? Ma ne so molto cosa buona in mezzo. Tu metti la roba genuina, ma che so che buoni non lo sai cosa è? Ho visto come fanno i sudimi di granchio, per carità di Dio, non più più. Conviene che te la fai in casa, impari e te la fai in casa, è tutta un'altra musica. Ti metti la pietra nel forno, cucina bene, cazzo dici un bombò. Cosa, la pietra nel frattaglio? Certo. E che te mani se la pietra nel frattaglio a bugnare il forno? È grande quanto il forno, la misura c'è giusta. Ah, bene, non più. Guarda, anche altri cibi ti li cucina bene, non solo la farina, anche altri cibi non ti si bruciano e sono cucinati bene. E quello li usano per fare i camini, eccetera, eccetera, le pietre raffreddate. No, le vendono anche per i forni già, gliel'ho detto io Antonio. Di prendersi quella, che è tutta un'altra cosa, e vendono apposta, si chiama anche biscotto. C'è grossa 3 cm, 1 cm. Dipende da cosa ti serve, capito? Devo mandare la foto del forno che ho io a gas, quello apposito per pizza. Antonio se ne è innamorato. Adesso Antonio se lo compra e si fa la faniglia. Sono la faniglia, mi faccio anche le pizze in casa. E per fare le pizze bisogna saperle fare. E bisogna avere la mano per fare la pizza. Vero Luca? Già, belle erano quelle là. Non ti posso dire buone perché tu non lo puoi sapere. No, bellissimo, no, bisogna essere. Cioè se vuoi fare una pizza proprio come quella della pizzeria devi avere un po' di pratica. Io ti faccio vedere che se mi pongo riesco. No, tu lo vedi su, tutti ci riescono ma bisogna fare. La prima volta ti uscirà male, la seconda volta ti uscirà un po' meglio, poi piano piano magari. Ma se uno ha fatto il panettiere per dire, la pizza la sa fare, perché la base è quella che conta. Una pizza base pane. Ci romantesi però viene lievitata diversamente. E Luca già lo sa. Dalla pizza in teglia alla pizza fonda è un'altra storia. Come la focaccia genovese e tutte altre cose. E comunque se ti prendi il forno puoi fare di tutto. Pizzale nuda, mi abito sotto casa, via giocare a casa e via. Infatti quel ragionamento io lo faccio con la faina, per esempio Antonio se la fa in casa, io invece preferisco prenderla, comprarla la faina, capito? Già pronta con salsiccia, cipolla, timone, il pepe, mentre le pizze, il pane, quelle robe lì me le faccio, le piadine me le faccio io. Io ho la pizzeria sotto casa mia, la pizzeria è sotto casa, esco dal portone e a fianco c'è la pizzeria, c'è prima vabbè l'agenzia funebre e poi c'è la pizzeria. Cioè si telefono, a che ora scende a prendertela già? Alle 8. Va bene, per le 8 è pronta, arrivo lì e già sopra le cose, pronto. Anche ieri l'ho fatto, poi se non ho le pizze grandi mi compro le pizze tartelle e sono buone lo stesso. Sono ben buone le pizze tartelle, non le paghi manco molto. Io le ho viste a 2 euro, 2,50 euro addirittura. A Platamona a 2,50 euro la pizza tartelle, lì costa 1,80 euro. Ti dici buso, non mi intendi? Prima è Vegas Adeleda, costavano poco, lo stesso adesso mi sa che sono quasi 2 euro, prima era 1,20 poi 1,50 adesso mi pare che siano 2 euro. Ma io prendevo la Cocco, per me il migliore era Cocco, via Rosello, con le pizzette era Cocco, poi invece ho scoperto che le faceva buone anche via Grazia d'Aleda, come si chiama, e c'è marito e moglie, sono Luisella, come si chiama, fanno pulli e pizze e basta. Pudding, via Grazia d'Aleda, quelle che le fa buone è pudding. Se molte volte le serie delle fa belle croccate. È per quello che sono buone. Sono croccanti perché ci mette lo strutto sotto, capito? Sono buonissime, veramente buone. Marcello le fa le serie. Non è marito e moglie, è il cugino quello lì. È il cugino di... come si chiama? Non mi viene il nome adesso. Ma anche il padre c'era prima. Sì, è storica quella pizzeria, prima era del padre. Ma diceva che è chiusa, così è, no, perché stavo ascoltando un'altra volta a te Antonio, che stava dicendo Antonio che non ce n'era, che non ce n'erano più in via Grazia d'Aleda. No, quello è Oggiano. Ma comunque c'è la pizzeria in via Grazia d'Aleda. Sì, via Grazia d'Aleda su. C'è quella di Puti, quella storica, diciamo, l'altra era Oggiano. Sì, buono. I polli non lo so perché non li ho mai presi. No, fanno tutto buono, però il fatto è che non le portano a casa e andare lì a parcheggiare è un casino. Perché secondo me la loro cosa è solo le pizzette più che le tonde, secondo me. Tonde non le fanno, fa solo pizzette qui. E non te le porta a casa? No, invece se per dire chiami al forno, come si chiama? Chiami in altre pizzerie te le portano sino a casa. Tipo, come carte si chiama? Quello che fa la Fenì. Sì, non si zuba. Quello che c'è via Nuova, come si chiama? Non mi viene il nome. E mai che due pizzette ti arriva a casa? No? Cioè, te le porta sì, ma non ti muovono a te. Quando le prendo, ne prendo 6, 8, capito? Già mi conviene. Il problema è questo, già, il problema è che se sei solo fari e ti rabbigli e sei solo. Insomma, quando sei in tanti, in una famiglia, vivono un bel di là a comprare pizze. Quello sì, anche tu, quello hai ragione pienamente, quello hai ragione. Però io solitamente quando la mangio non sono mai solo, non ti preoccupare. E va a Romana, no? Ognuno si paga la Giulia. Lo so, però magari viene mia sorella, viene cosa. Invece io me la posso in casa, anche per noi tre, a volte siamo in quattro, perché c'è sempre mia cognata. Io me la posso in casa e mangio una pizza buona romatese e non me la futti nulla. Ti puoi fare anche le basi, tanto. Le basi con la mozzarella, però gliela metti in uscita e poi te le metti in congelatore. Cosa fai? Ne avuca al congelatore, si muove la mozzarella e il resto degli ingredienti in forno e non devi fare impasciare tutti i gusti, capito? Ti fai le basi già pronte, sugo e buffa e cotta. Sì. Te lo fai, te lo metti in congelatore, ti fai le basi. Ti rimuono i 30 o ancora il congelatore quando dicevi, mi ribughi te, e ti mangi la pizza. Allora, io qua faccio le passature anche così, le focacce, le metto un sacco vuoto e le metto in congelatore, mica ne ho 3-4 kg e mi rimangio tutto in una buccia. No, assolutamente. Perché sembra così, ma a farli tutti i giorni rompe, non è che la segna la bugna, ti dica la fa e impasciare la sera prima, e metti in frigo, vabbè io faccio procedimenti 24 ore, però scoccia, capito, farlo ogni giorno. Però sai che mi hanno detto che qualche pizzeria ci sono proprio questi che fanno i panetti, qualche pizzeria li sta comprando così. In che senso così? I panetti già fatti. No, non credo, tu. Tu non ti ne abbizzini manco, di la magna e boh, è uguale come quella che fai tu, non te ne accorgi neanche. Vabbè, sono sempre panetti fatti dalle pizzerie. La ruota le fa buone lo stesso, ma molto buone, storica anche la ruota ormai diventata. fa buona la fine e le pizze. Luca, te lo ricordi Marco quello che... adesso mi sa che ci sia un macellaio lì in via Chiarini, che era robusto con i baffi, c'era lui e la moglie che faceva le pizze tanto tempo fa. Sì. Non me lo ricordo, sì, a me chiamava a me per fargli le tonde, perché la gente, io frequentavo lì perché c'avevo appunto la mia moglie che abitava lì, ma all'epoca stavamo iniziando, dai, e io frequentavo lì. E una volta mi avevano visto a me a fare le pizze tonde da Marco. E da allora ogni volta io ero sempre lì fuori, fuori dalla pizzeria, Luca mi dice quella che vuole delle pizze, gliele fai, va bene. E invece lui faceva quelle al taglio, quelle in teglia. E le tonde tutte a me le faceva. Ma io le facevo così, per passatempo, io mi vado a pagare. Beh, a Marco era ucciso da noi, no? E ci portava le pizze, l'ultima teglia che c'aveva le portava calde e calde, e molte volte mi portava i panetti fatti e me le facevo a casa io, ma non vengono mai bene come... forse perché non ero bravo io a fare, non lo so. Allora, per farti le pizze in casa tu, quelle rotonde, devi prenderti due pietre refrattarie. Ok, il forno, col forno di casa è, ascoltami bene, ti compri due teglie refrattarie, ok, una la metti su una griglia a metà forno e l'altra proprio attaccata al cielo, sempre come sopra una griglia. E accendi il forno, anche mezz'ora, 40 minuti, dipende da quanto ci mette il tuo forno a scaldare. Perché le pietre poi devono assorbire il calore. Poi ti fai le pizze tonde e lasci 10 cm, 8 cm tra una pietra e l'altra. Ti fai le pizze tonde e dopo mi torni alla risposta se ti escono come in pizzeria. A me mi uscivano secche, un po' secche, non erano pari a manca la già. Allora, la pizza tonda già deve stare massimo un minuto. Massimo un minuto dentro al forno, capito? Non è in questi forni di casa, però se tu fai così come ti sto dicendo io, la pizza entra e esce, perché la pietra, perché ho consigliato a Antonio di comprarsela la pietra? Perché la pietra assorbe calore diversamente da una teglia, capito? La teglia della brugia, la fene poi la appoggi sulla pietra, è diverso il calore, capito? Perché usano appunto le pietre nei forni di pane, delle pizze. Per questo motivo qua, tu fai così come ti sto dicendo io, poi ti fai due panetti, ti fai la pizza e la metti in forno così, e la vedi come si gonfia il cornicione e come ti cucina uniformemente. Dai, vi devo lasciare che devo andare a portare giù il cane, mi sta guardando, mi sta facendo la minura. Ciao, ci sentiamo, dai, buona serata. Ciao a tu, ciao a tutti gli altri che stanno ascoltando. Ciao già, ce ne sentiamo. Ciao già. Buona passeggiata alle prossime. Capita tu, se vuoi fare le pizze tonde, io parlo di pizze tonde, non di teglia, pizza tonda. Certo, una pizza tonda si ha in un forno di casa per casi 8 minuti a cucina, ne ha buchi secca, ne ha buchi. Perché non va bene, non prende il calore, ma con la pietra io ho risolto. La fene cucina bene, proprio si vede che dentro cucina e non ti si brucia. E tu fatti un panetto, magari invece hai fatto una pizza, ti fai un panetto, poi te lo schiacci, ci butti sopra l'olio e il sale, se ti vuoi mettere origano, poi queste robe qua. E poi lo metti sopra la pietra, capito? Senza buttarci chili di farina, perché se butti farina sulla pietra la rovini, la sporchi, fa fumo, eccetera. È già rosso già. E poi mi do la repulsa, come ti dici, sa focaccia. Buona. Cazzo, prima senza di quella mi bruciava, mi ha bruciato la faina pure. La pietra è buona e ottima per quello, perché trattiene molto il calore. Le pizze perché si cuociono a 400 gradi, tra 80 e 400, capito? Proprio perché vuole entrare e uscire, perché la pasta è talmente sottile che se tu la lasci di più la secca, soprattutto sotto, lascia perdere il cornicione, che quello essendo più più umido ti rimane morbido, ma è la parte sotto che ti secca. Ma sbaglio, la pizzeria ce l'aveva dove c'è la banca ora. Esattamente, sì. Faceva pizza in teglia, di pettonde. Sì. E poi che quello era sposato con uno di quel palazzo stesso. Ma che fine ha fatto quell'uomo lì? Non l'ho più visto. Non lo so. So che stava anche al Cison. Dopo credo però al Cison. Perché quando aveva la pizzeria era tutti i giorni. Ma era grande quella pizzeria, eh. Era grande, caspita. Poi ci hanno fatto la banca lì. Sì. Prima della pizzeria non so se c'era qualcosa, però sai, le pizze erano buone, lui faceva strappolando e anche i panetti faceva lui, a me mi chiamava solo per appunto fare le tonde. Erano buone le pizze, poi non so se c'era ammalato, Non l'ho più visto, è morto. Può essere. Sono anni che non lo vedo. Come si chiamava, te lo ricordi? Mi ammetto, tanto ha detto Gianni Buu un nome. Marco si chiama. Non l'ho più visto, già le compravamo già le pizze, erano buone. Non l'ho più visto. E anche Calimero, Marco Calimero, li faceva buoni. Veramente pizzette. Non mi ricordo se faceva fine, ma il Marisi. Sì, Marco Calimero già sa travagliaggia. E Marco già lo so perché andavi a prenderti la pizzetta lì. E perché c'erano il latino in omaggio. C'era la pagnotta di sorso. Sì, allora ero bambino, lo sa. C'era mi sembri chivi. Parlando di un bel po' di anni fa. Ma chi è che mi ha detto che hanno aperto una pizzeria lì adesso? Dove? Lì, così mi ha detto lì dove c'era Marco. Sì, poi ha continuato, c'era un signore grande. Io anni l'ho vista chiusa. Stava sopravvivendo a quella dei tessuti, te la ricordi? Non so se c'è ancora. Sì. Quella dei tessuti, cosa vendia, la lenzura, roba di sartoria? Non me ne ricordo. Comunque pizzeria venivano una dalle dall'altra, licenze libere, via, una dietro all'altra le pizzerie sono. A chi, io dico, se la pizza devi fare, la devi vendere, devi metterne ingredienti. Devi metterne qualità e soprattutto quantità, che si rimane due pezzi di prosciutto e poi ti mettono a spalla, no? Due pezzi, olive che sono secchi, mucchi, chivi da 6 mesi. Ce n'è furfantini, furbi. Brezze, avanti. Meno male, buonasera. Ma ce ne facevo pizza estate. Mari, buonasera. Ebbene, la pizza buona è anche. Come? No, non ce ne facevo la pizza. No, la fai ne faccio io in casa. Ah, è giusto, Luca fa la pizza, avanti Luca. Infatti abbiamo aperto una pizzeria. Sei lavora, meno male. Stavo dicendo, Luca, l'altro giorno stavi parlando della panetteria o pizzeria, cioè di Rosello. Qual è il costo, cioè la pizzeria vicino a Bassanna, il padrone, quello lì era il padrone, capito? Costi. Io so quelli che lavoravano al panificio in via Rosello erano, adesso c'è una pizzeria voglia di pizza. Esatto, quello lì è. Poi la sorella si è messa, non so, con un albero si è messa. Perché mi ricordo anche Bacchigiolo, una volta il pane lo prendeva, faceva del pane particolare e lo prendeva direttamente vicino a Bassano, da lui. Andava a 7 giorni e si prendeva le, non so se sono le cose, baguette e così via. Boh, che faccia c'è pane non lo so. Ma io vi lascio, che è pronta su Vappaio a proposito. Antonio, pericoloso la fainé, però Mari, capito, non invitarlo a mangiare fainé, te lo sconsiglio, ciao a tutti. Ciao Luca, ci vediamo domani, dai. Avanti a te. Ciao Lu, ce la risentiamo. Io me la faccio in casa, da quando ho imparato me la faccio in casa. E un'altra cosa fatta in casa, è un'altra cosa, è come mia moglie sabato faceva la pizza fa a casa. Invece per mio nipote è vizioso, mi tocca andare a prendere. Capito? È vizioso e vado in via Ripunte e la prendo, dai vicino, là. o altro mi fai, mi dai un controllo, che c'è un portatile qua che sto provando, mi dai un controllo e mi dici se come mi senti, la modulazione, il segnale non mi interessa. Ti posso dire, che mi segna 9 tacchette più, mi segna, però non lo so. Dovrei andare in un'altra stanza a vedere quanto arrivo, perché questo è digitale. No, non mi interessa, aspetta un attimo solo, ti accendo l'altro apparecchio e mi dici come è la... Mi interessa la modulazione, non segnare. Aspetta un attimo, ti chiamo io. Ehi, ok, dai. Questo è il portatile. Esatto, guarda questo passaggio, come lo ascolti. Attenzione Antonio, attenzione Antonio, lo ascolti. Attenzione Antonio, Antonio, cambio. Attenzione Antonio. E avanti. Ascolti, bene, ascolti. Benissimo. E basta così, mi interessava che mi ascoltassi, dai. Dopo il segnale non mi interessa nulla. Ho chiesto sgancio e attacco l'altro, dai. Capo, ti sento benissimo. Ok, no, mi interessava solo... Mi stai ascoltando, tutto qua, avanti a te, a te. Ehi, mi si è staccata la spina. Attaccala, la siamo qua. No, no, l'ho attaccata, se no ti avrei chiamato. Ok, meglio così, dai. Ok, beh, fermoci, non stai lavoricchiando. Domani mattina. Ah, meglio così, dai. Meglio così. Capo. E come ti arrivo a Ottava col portatile? 9.10, la radio sempre Super 5, dai. Capo, questo è un Intec 520 Plus. Già lo sai che apparecchio sto usando io, dunque il segnale è giusto. Io poc'anzi stavo utilizzando l'Intec, il 50S, 40 canali. Già andava. Va benissimo. Dunque domani si lavora sempre il solito, poi un altro. Domani sono il capannone domani. Ah vabbè, a sistemare la cosa e ci sono le cosette, pezzi, pezzettini, meglio così, dai. Dove c'è la capannone? Per la niente. Di fronte, dove c'è Portobello, lo sai? Portobello, sì. Sì, lo so. Ci scende un attimino, c'è la carrozzeria Pugione. E ho capito, dove c'è Palmieri, dai? No, carrozzeria Pugione, lo sa dove. Ma Portobello quale stai dicendo? Quello che c'è vicino a Catania Rosso. Lo confondo in via Corso, via Titoletto, Catania Giamma. No, a Predanieta, dopo dietro il fornitore. Esatto, c'è Portobello, poi c'è una carrozzeria e così via. E c'è una via che si porta anche, quella via si porta anche da Palmieri. C'è il negozio dei fiori, che vende fiori, roba così. Noi c'abbiamo il capannone lì a fianco. Ah, è ok, dai. Ho capretto. Beh, fiori all'ingrosso, dai. Negozisti, vabbè, c'è fiori e altri giani. Meglio gai, la puffa sta bene, sì. Pupo, il mio c'è il pisellino, il pupo. Va bene, meglio così, dai. Io la chiamo la Barbie. Magari tu c'hai femmine, no? Vabbè, io ho solo una figlia e c'ha due maschietti, uno 13 anni, poi 17 e l'altro 4 anni. Allora, il mio è maschietto. Quanti mesi c'ha adesso, Antonio? No, un anno c'ha. Un anno è meglio così, dai. Ma dove è nato? Dirà quando è nato solito oppure alla Feroce? No, è nato, vabbè, è qua. Era direttamente qua, perché mio padre era morto, quindi ci abbiamo ripreso la casa. Mi ti sta ascoltando, Gabriele, qui vicino a me, l'ho coricato nel mio letto. Ah, è ok, dai. Oioia, meglio così, dai. Meglio, dai. Quindi... al centro storico eravamo, quando è morto lui eravamo, è successo, quindi se ne stavamo andando, era ancora incinta mia moglie, ma è nato in occhio, dai, diciamo. Ok, ma aveva avuto un infarto oppure era malato? Dice un infarto. Ormai, cazzo, più che infarto non si sentono in giro. Ogni cosa è infarto, quello è infarto, io devo vaccino, mi aveva detto. Eppure lui non si curava bene. Magari si era un po' trascurato, una cosa all'altra, così. Sì, allora. E non era più lui. E vabbè, poi. Boh, non lo so. Quando manca la compagna, una cosa all'altra. Ci sono altri fattori, dai. E già vedo via che sta gurraccia in casa. Già. E lei ancora viva? Quella stronza, e quanto pare sì. Ma dove abita? In Carrera Longa? Ma abita, è di paese, era. Della sera Matessia, io fuori dalle palle. Hai fatto benissimo. Col funerale l'ho buttata fuori, cioè l'ho portata via, fuori. Hai fatto bene, fuori dalle palle, via. Per carità, meglio nulla. Gente di merda. E secondo che persone trovi ne approfittano, capisco, la persona debole e così via. E cercano di approfittarne, il più possibile. Sì, ma alla fine la rivincita l'abbiamo avuta. Come? La rivincita l'abbiamo avuta noi. E appunto, dai, se c'hai... devi continuare a vivere tranquillo e sereno e ciccia piano piano la giornata. Ma chi è che voleva entrare? Qualcuno voleva entrare. Portate da me. No, pensavo che voleva entrare. E vabbè, se vuole entrare già, la porta è aperta, dai. La rivincita l'abbiamo avuta noi. E vabbè, già te lo spiego in verticale poi. Ahi. Ho quasi mezzo capito, ho quasi mezzo capito come succede. Come succede in famiglia, i bisogni tagliati ne approfittano, ma meglio per voi, diciamo, dai. E invece, scusate mio, invece con tuo zio non tratti, tuo zio, come a credere, non trattate, no, o mi sbaglio? Guarda, l'ho visto l'altro giorno da Eurospin, mi sfuggita e boh. Già solo un anno sta vedendo io. Io lo conosco abbastanza bene perché veniva dove trabaccavo, poi abbiamo fatto molte ribossate insieme a mio collega, diciamo, Gabino, dai. Siamo sai, Gabino è cognato. E sono usciti anche tu insieme a lui. Capito? Io non sapevo che era suo zio. Poi ho fatto 2+2 perché ho visto a lui. Immaginavo a lui e un po' mi vado a fare, era quasi gemelli. Ecco. Avanti. Santu, mi date un controllo di come sto provando questo baracchino che è fermo da un sacco di tempo, con un microfono che non si sa neanche se funziona. Mi sentite? Benissimo. Ma il livello microfono è molto basso. Per me è perfetto. Io ti sto ascoltando col portatile, va bene. Chi è l'altro amico che non ho capito chi è? Avanti. Marino. Di ottava Santiago con la radio 5. Unino, forse non ci siamo mai sentiti. Non è Kawasaki, no? No, Marino Roberto, sei giusto? Ah, Marino, scusa Marino, ti avevo riconosciuto. Adesso ti sto ascoltando con questo baracchino. Un Inter che ce l'ho, ce l'avrò da quando è stato qua in 27, l'ho acquistato, un stazione base. E te ci a vedere se funziona. Ho acceso adesso per vedere come va col suo microfono. Poi questo è il microfono amplificato. E te ci a vedere se come livello microfonico c'ha una batteria, va 20 anni, se funziona. Sembra di sì, mi state ascoltando per cui funziona la radio. Questo c'ha neanche 4 watt questo baracchino, monogasto, però è bello, c'ha una bella linea, c'ha bande laterali, MFM, due strumenti, eccetera eccetera. Mi prendi tu Antu e poi passi a Marino. Capa, qua sei una bomba, se sento benissimo, ti sento. Vabbè, adesso sono contento, perché questo è un baracchino omologato, però stazione base, che non ne facevano più, uno degli ultimi che hanno fatto proprio, c'ha un sacco di funzioni, una marea di cose, sembra un HF questo qua. Anch'io ti ascolto bene con questa radio, non c'è problema, il segnale tuo è 9+15, Marino 9 arriva, ti ascolto perfettamente tutti e due, vai di nuovo tu Marino. E io Roberto sono più piccolo bianco e nero, no, il segnale è 8 il tuo, 8 di qualcosa, la radio è la tua, praticamente ti ho riconosciuto proprio al volo, va benissimo. va benissimo. Avanti Roberto. Era parecchio, non ti sentivo, Antonio, già lo sento ogni tanto. Poi l'altro giorno sei passato da me, Antu, mi giro e non vedi più, c'era un po' di confusione, ho visto, però forse hai capito, ci è andato via per quello. Sono passato così e me sono andato. Sono andato subito. No, anche tu sei, diciamo che noto, le lineette salgono, è noto che sei forte. Sarà un segnale di 9,20 minimo, un qualcosa del 9,25, 9,20 minimo, qua da parte mia. Io adesso sono col portatile, non sono con quello grande. Tanto io ti ascolto perfettamente, modulazione perfetta, nessun problema, come al solito. Lui adesso che ha cambiato posizione.